l'onda. L'allarme tsunami era stato lanciato di primo mattino da tutti i telegiornali. Le notizie erano apparse subito confuse e contraddittorie, tant'è che Franco aveva pure fatto una battuta. Ma cos'è la sagra degli imbecilli? Cosa vuol dire tutte le coste dell'Europa meridionale? Un'onda anomala che va da Gibilterra all'Egeo. Ma non diciamo stronzate, per favore. Sì, in effetti detta così sembrava una sciocchezza. Però c'era poco da stare allegri. Sarà anche una stronzata, aveva ribattuto Giorgia. Però qui siamo nel bel mezzo del Mediterraneo. Se parte un'onda dalla Libia o dalla Tunisia, qui ce la prendiamo in pieno. Franco non disse niente. Sapeva che aveva ragione, eppure i dubbi rimanevano. Da quando in qua le coste italiane erano a rischio tsunami? C'era stato il maremoto di Messina del 1908, d'accordo, ma quello mica era partito dall'Africa. E la distruzione di Creta nell'antichità era stata causata dall'eruzione di Santorini. Insomma, non si era proprio mai sentito che un terremoto in Africa avrebbe potuto provocare un cataclisma sulle coste italiane o francesi o spagnole o greche. Che fosse una bufala? Ma avranno preso la notizia da uno di quei deficienti che si scoprono scienziati dalla sera alla mattina e che si inventano qualche teoria balorda per finire sulle riviste, aveva aggiunto Franco. Ma il tono della sua voce non sembrava tanto convinto. Dicevano così anche di quel tizio che aveva previsto il terremoto all'Aquila, pensò. E gli inglesi della camera accanto avevano confermato che la notizia era stata data anche dalla BBC. Fatto sta che alla fine tutti erano saliti sulle colline, qualcuno imprecando, altri cercando di rassicurare i propri bambini, altri ancora in silenzio con i volti tirati. Ormai erano lì da quasi 3 ore. E il mare sembrava più calmo che mai. La tensione lentamente era scemata e ora la gente cominciava a buttarla a sorridere. Se l'onda arriva fin quassù, faccio house a quelli della protezione civile. Se proprio mi dovevo beccare uno tsunami, almeno potevo stare in prima fila sulla spiaggia. Scherzava un signore con l'accento toscano. Sua moglie però non sembrava particolarmente divertita. Oh, bella battuta, gli disse. Se arriva fin quassù, sai dove te la metti la denuncia. Oh, dai, Marta, si va per scherzare, tanto qui non arriva proprio niente. A quest'ora uno tsunami dall'Africa sarebbe già arrivato da un pezzo. Tra mezz'ora ci fanno tutti scendere all'albergo, scommettiamo? Franco, che si era seduto poco distante, annuì. Ma io l'avevo detto subito che era una stupidaggine, le versioni dei telegiornali erano una diversa dall'altra, e poi nessuno ha fatto vedere immagini, nessuno ha parlato di vittime, era tutto un pare che, sembra che, sembrava una gara chi la spara più grossa. È vero, rispose il signore toscano sorridendo, e poi quelli non ne azzeccano una. Si ricorda l'anno scorso quando diedero la notizia della bomba sotto la diga? Gettarono nel panico una valle intera per poi scoprire che la diga era in Francia e che la bomba era un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. Franco scoppiò a ridere. Sì, sì, me lo ricordo e come. Che coglioni. 3.000 persone in fuga e i direttori dei TG a chiedere scusa in prima serata. Adesso rideva anche la signora. Eppure Giorgia, che fino a quel momento era rimasta in silenzio, si lasciò andare a una battuta. Stasera diranno che l'ondata in arrivo dall'Africa è solo di caldo, giusto per lanciare il servizio in cui ti spiegano che bisogna bere molta acqua. Ah, e con tanto di interviste, aggiunse Franco. Scusi, signora, come si sta in città con 45 gradi all'ombra? Insomma, fa proprio caldo. Rimasero su quel promontorio a chiacchierare per un'altra mezz'oretta. Poi videro che la gente cominciava a scendere di nuovo verso la spiaggia. Che dite? Torniamo giù anche noi? Qui non succede niente. E poi mi sono rotto di stare sotto il sole. Franco si era rivolto anche alla coppia di toscani, che gli erano parsi subito molto simpatici e a cui magari più tardi avrebbe chiesto di cenare insieme. Ma sì, dai, torniamo giù. Io poi avrei pure un languorino, rispose lui. E ti pareva, aggiunse lei sorridendo. Se arrivava lo tsunami, tu a luna eri comunque pronto a tavola. A Giorgia scappò da ridere e indicò Franco con il pollice. Ah, beh, ne abbiamo un altro qui. Questo qui si fa torturare piuttosto che saltare un pranzo. Lui la guardò con un'espressione ironica. Poi le diede un buffetto sulla guancia e si incamminò. Quando arrivarono in albergo, Giorgia entrò subito in camera per accendere la TV. I giornali avrebbero pur detto qualche cosa, se non altro per confermare il cessato allarme. Ma i telegiornali non dissero niente, nemmeno una parola. Spense il televisore e disse a Franco: roba da non credere, neanche una smentita. Vabbè, cosa facciamo? Andiamo in spiaggia? Molto volentieri. E ti va se ci mettiamo di nuovo vicino al baracchino? Sai, quando stai sotto il sole per tanto tempo, avere la birretta a portata di mano è assolutamente fondamentale. Ah, certo, come no. Guarda che non sto scherzando, L'altro giorno lo hanno detto pure al telegiornale, con temperature così elevate è importante assumere molti liquidi e integrare i sali minerali. Ma non dire cretinate, lo interruppe Giorgia sogghignando. Come cretinate? Guarda che il luppolo è un integratore naturale prodigioso e pare che dei ricercatori bavaresi... Giorgia scoppiò a ridere. Ma la finisci di dire stronzate? Dai, prendi l'asciugamano e andiamo al tuo baracchino. Franco le stampò un bacio sulla bocca, prese la borsa e uscì. Arrivati in spiaggia, notarono che c'era meno gente del solito. Evidentemente qualcuno doveva essere rimasto in albergo per via di quella notizia. Tanto meglio, pensarono. La spiaggia così tranquilla era ancora più bella. Franco entrò in acqua quasi subito e dopo qualche minuto Giorgia lo seguì. Nuotarono per una cinquantina di metri lungo la scogliera che si allungava sul lato sinistro della baia. Poi si piazzarono su uno scoglio a prendere il sole. Quando tornarono a riva, erano già le 5:30. Cosa ne dici se stasera torniamo a mangiare il pesce d'Alino? Giorgia sul momento non disse niente, ma Franco vide che stava trattenendo un sorriso. Oh, è inutile che fai con la faccia, sai, l'altra sera ancora un po' ti facevi fuori una cernia intera. Ah sì, ha parlato il dietetico. Comunque va bene, pesce d'Alino approvato. Oh, lo vedi che ci capiamo? E magari dopo cena si potrebbe... Ma Franco si bloccò. Di colpo, a pochi passi da loro, un signore si era messo a gridare. Franco si voltò verso di lui per vedere cosa stesse succedendo, ma proprio non capiva cosa avesse quell'ometto dalle evidenti origini asiatiche da urlare in quel modo. Giapponese, pensò. Sta urlando in giapponese. Cosa starà dicendo? Franco? Giorgia, che si era alzata in piedi, aveva il dito della mano destra puntato verso il mare. Guarda! E allora Franco capì. L'acqua del mare si stava ritirando. Una trentina di metri di fondale che costeggiavano la spiaggia erano emersi in superficie. I banchi di sabbia e di alghe che fino a pochi secondi prima erano sott'acqua, ora si potevano vedere a occhio nudo. Decine di pesci battevano la coda sulla sabbia bagnata e lo scoglio dove Franco e Giorgia avevano preso il sole ora appariva come una piccola torre di roccia di almeno 5 metri. E il mare continuava a retrocedere. Pochi istanti e scoppiò il panico. Tutti si misero a urlare e a correre. Il bagnino prese a fischiare come un forsennato, ma dopo qualche secondo lasciò perdere e cominciò a correre anche lui. Correvano quasi tutti, senza sapere bene dove, ma comunque via, via da quello che stava per arrivare. Quasi tutti. Franco e Giorgia, infatti, erano ancora lì, immobili. Avevano entrambi lo sguardo fisso verso il mare, o verso quello che fino a un attimo prima era il mare. L'acqua si era ritratta quasi del tutto. Solo in lontananza si vedeva ancora una sottile linea blu. E dopo un po' scomparve anche quella. Il mare, semplicemente, non c'era più. Franco era come ipnotizzato. Quello a cui stava assistendo non aveva alcun senso. È un fatto noto che quando arriva uno tsunami il mare si ritira per qualche metro. Ma che vuol dire per qualche metro? Qui non si vedeva più acqua, perdita d'occhio. Anche Giorgia era rimasta impietrita. Lo scenario era assurdo. Nessuno dei due si era messo a correre. Lo sbigottimento li aveva completamente sopraffatti. Nemmeno dopo un minuto, quando si guardarono negli occhi per alcuni interminabili istanti, pensarono a scappare. E il motivo era evidente a entrambi. Se davvero fosse arrivato uno tsunami, proporzionato alla scomparsa del mare per chilometri e chilometri, correre non sarebbe servito a niente. E non solo a loro due. Un'onda del genere sarebbe stata un'apocalisse. Rivolsero di nuovo lo sguardo verso il largo. Per un po' non accadde nulla. Assolutamente nulla. Poi all'orizzonte comparve qualcosa. Ma non sembrava acqua, no. La linea orizzontale che si stagliava in lontananza non era blu, ma marrone. Cresceva. Cresceva anche se molto lentamente, troppo lentamente per essere acqua. Che cazzo è quella roba? Mormorò Franco. Ma non ebbe risposta. Quella roba marrone si stava avvicinando, lenta e inesorabile. E più si avvicinava, più sembrava assumere la forma di un'onda. Ma un'onda di che cosa? Ora si riuscivano a intravedere dei puntini, delle macchie. Quella cosa non aveva una superficie uniforme. Quella massa indefinita si avvicinava sempre più, e avvicinandosi a riva la sua altezza aumentava. No, non era soltanto l'effetto ottico di un oggetto in avvicinamento. Quella cosa si stava alzando, proprio come fanno le onde avvicinandosi a riva. E la riva ormai non era più tanto lontana. Poco più di un chilometro, forse. E quel muro cresceva, cresceva. Poi Franco sembrò riconoscere... No, non poteva essere. Eppure a ben guardare sembrava proprio così. No, non era acqua. Il muro che lentamente si stava avvicinando era fatto di persone. Persone in carne ed ossa, una accanto all'altra, una sopra l'altra. Migliaia e migliaia di persone, milioni di persone. Una massa sterminata di persone che rotolava sul fondale di un mare che non c'era più. A un centinaio di metri dalla spiaggia, l'onda umana raggiunse l'altezza di diverse decine di metri, rallentò ancora. Ora si potevano perfino riconoscere i visi. Visi di uomini e donne disfatti dalla fatica, dalla fame, dagli stenti. Visi scolpiti dalla sofferenza e dal dolore e dalla rabbia, feroce, incontenibile. Quell'onda spazzò l'intera costa dell'Europa meridionale e invase il vecchio continente come nessuno tsunami al mondo avrebbe mai potuto fare. Buonasera, benvenuti alla Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. Avete appena sentito dalla voce di Maria Pia Zanetti la lettura del primo racconto intitolato L'Onda di Gianluca Battistella, contenuto appunto nel libro Basta un soffio, che è appunto che viene presentato questa sera, e ringrazio anche l'autore di essere qui presente. Laureato in filosofia all'Università di Milano, pieni voti, non è il primo libro che scrive, perché abbiamo visto e anche acquistato e catalogato numerosi contributi che lui ha dato, però in altri ambiti, e questa è forse la prima raccolta, diciamo, nell'ambito della narrativa, nel racconto, e devo dire che è un libro che abbiamo letto velocemente, tutto d'un fiato, con grande interesse, ed è anche per quello che questa sera siamo qui, insomma, a presentarlo con l'aiuto di Maria Pia Zanetti, che, come avete potuto sentire dalla sua prestazione, è un'attrice professionista che ci accompagna da parecchio tempo nelle nostre iniziative. Perché e come Gianluca Battistella è arrivato a scrivere dei racconti, a raccoglierli in una raccolta con questo titolo, ma questo lo scopriremo al fine, ecco, non diamo subito, anzi non diamo tutte le informazioni, e, però mi piacerebbe far conoscere, far capire al pubblico perché si è approdato a questa, così, a questa sfida nuova della narrativa e del racconto. Grazie mille per la presentazione. Ma questa cosa dei racconti è un fatto relativamente recente, nel senso che fino a circa 2 anni fa avevo sempre scritto soltanto in versi, avevo scritto poesia. E appunto 2 anni fa è successo che mi sono trovato in un periodo di, diciamo, scarsa ispirazione e quindi avevo cominciato a scrivere sempre di meno. Mi ricordo che quel poco che scrivevo non mi piaceva neanche più, avevo la sensazione di ripetermi, di scrivere sempre delle stesse cose, di usare anche le stesse immagini. E quindi ho fatto questo primo tentativo, credo che fosse giugno 2012, quindi quasi esattamente 2 anni fa. 2010, scusate. Ho fatto questo tentativo di scrivere per la prima volta in prosa un breve racconto, in realtà quasi più per frustrazione che non per una reale convinzione o un reale momento di particolare ispirazione. E infatti poi quel primo racconto, insomma, è venuto un po' così, quando ho dovuto fare la selezione per questo libro, per quel racconto non ho deciso di non metterlo. Quello che però è successo praticamente fin da subito è che ho avuto la netta sensazione che lì si stesse un po' aprendo una nuova possibilità, una nuova opportunità, e non tanto in relazione all'aspetto formale dello scrivere in prosa piuttosto che in versi, quanto per il fatto che scrivendo in prosa di colpo avevo la possibilità di scrivere di argomenti, di tematiche, di questioni che in qualche modo mi riguardano come persona e che però scrivendo in versi non avrei neanche potuto sfiorare. E in realtà è stato questo poi che mi ha spinto a proseguire su quella strada, a scrivere un secondo racconto, un terzo. Per quanto riguarda le tematiche, le cose di cui mi piace parlare, gli argomenti, non è semplice parlarne in termini generali, perché in realtà i racconti sono anche abbastanza diversi l'uno dall'altro. Però ci sono alcuni aspetti, alcuni elementi che sono presenti in più di un racconto. E ce n'è uno in particolare che è presente anche se in forme diverse, in 5 dei racconti che ho inserito nel libro, in 5 su 13. E in realtà è un argomento, un ambito tematico un po' delicato. Infatti, quando ci siamo trovati con Valeria e con Maria Pia per discutere un po' come impostare la presentazione, di cosa parlare, di cosa non parlare, effettivamente era un filo titubante, non ero sicuro se fosse il caso di parlarne o meno, e però essendo un ambito tematico appunto presente in 5 racconti su 13, poi alla fine non mi sembrava nemmeno giusto non parlarne per niente. La questione, l'argomento a cui sto facendo riferimento ha in qualche modo a che fare con il rapporto tra politica e violenza, che è un argomento che mi ha sempre molto interessato, sia in termini generali che più specificamente in relazione alle diverse forme di violenza politica che abbiamo vissuto in Italia, soprattutto negli anni 70, negli anni di piombo. Ed è un argomento che in realtà io conosco perché l'ho studiato nei libri fondamentalmente, o attraverso le varie inchieste giornalistiche, mi viene in mente Zavoli e La Notte della Repubblica, mi sembra si chiamasse. Sì, sì, sì. E quindi io ho sempre avuto la sensazione molto forte che quella cosa, quel capitolo di storia, quelle vicende in qualche modo mi riguardassero da vicino, anche se sì, negli anni 70 c'erano, insomma sono del 71, quindi in quegli anni a malapena sapevo, anzi non sapevo per niente cosa fosse la politica, forse si stava anche meglio, tra l'altro. Però appunto ho sempre avuto la sensazione che quella cosa, quel capitolo, quegli eventi mi riguardassero in prima persona, e ho anche provato a domandarmi quale fosse il motivo, ho perfino provato a ad immaginarmi come sarebbero andate le cose se fossi stato, se avessi avuto 20 o 25 anni, non negli anni 90, ma 20 anni prima, appunto in quegli anni lì. Ed è, anche se è un'ipotesi di pura immaginazione, di pura fantasia, è sempre stata un'ipotesi che mi ha procurato un senso di inquietudine molto, molto profondo. La forma del racconto si presta molto bene a parlare anche di un argomento come questo, mentre scrivendo in versi, sinceramente, non avrei neanche saputo dove cominciare. E quindi sono convinto che l'aver iniziato più o meno 2 anni fa a scrivere racconti mi abbia fatto molto bene proprio su un piano personale. E credo che sia ancora adesso la motivazione principale che mi sta portando a continuare a scrivere. In realtà anche adesso io sto scrivendo in prosa, quindi racconti, molto più di quanto non stia scrivendo in verso, che è al momento una cosa che ho quasi messo un po' da parte, almeno momentaneamente. C'è una frase nel secondo racconto che è abbastanza emblematica di come Gianluca sia riuscito, nonostante la giovane età e non appartenga diciamo alla generazione dei giovani degli anni 70, che però rende bene l'idea di quello che può essere anche successo, di quale molla abbia scatenato a volte certi fenomeni, certi movimenti, e che viene tradotto nella forma della prosa in maniera chiara e efficace. E a un certo punto all'interno del dialogo, del racconto, l'azione, c'è un dialogo dove si scatena una riflessione e dice: le discussioni sull'opportunità politica dell'azione erano state accese, ma sulla sua legittimità nessuno aveva espresso dubbi, quantomeno non a voce alta. Si trattava pur sempre di sparare a una persona, per quanto uno si sforzasse di razionalizzare la questione, l'aspetto umano della questione rimaneva irrisolto. Quindi c'è un grande problema da una parte di questa decisione, di questo anche risvolto politico, di movimento, eccetera, condannabile, però dall'altra anche l'aspetto umano che rimane irrisolto, il senso di colpa e comunque anche tutta una serie di dinamiche personali con la coscienza che rimangono sospese e pesano. Rimane, secondo me, irrisolto perfino nei contesti storici dove possiamo in qualche modo presumere che il ricorso alle armi sia in qualche modo legittimo. Mi riferisco soprattutto al capitolo della resistenza, no? Che non è stato combattuta a colpi di editoriali giornalistici, è stata fatta con le armi. Perfino in un contesto del genere, secondo me, la questione, se vogliamo, morale rimane gigantesca, enorme e credo in qualche modo irrisolvibile. Sui racconti che in qualche modo hanno uno sfondo politico, e sono i racconti che ho messo tutti nella prima parte del libro, li ho raggruppati proprio nella prima metà, in realtà non volevo dire molto altro, però c'è un passaggio, c'è un dialogo che secondo me esprime in modo abbastanza preciso il mio modo di percepire questa questione. Credo che rappresenti in modo abbastanza fedele sia il mio modo di sentire che il mio modo di pensare rispetto a questa questione. È un dialogo tra un segretario regionale di un partito di, diciamo, centro-sinistra, di sinistra moderata, di sinistra di governo, e l'esponente di un gruppo clandestino che ha sequestrato questo segretario. E tra questi due personaggi c'è uno scambio di battute, c'è una discussione. E avevo pensato di non leggere tutto il racconto, anche perché, se ricordo bene, è il più lungo, è comunque uno dei più lunghi, ma avevamo pensato proprio di limitarci a questo stralcio che credo si estenda per neanche 2 pagine scarse, e perché secondo me rende proprio un po' l'idea. Prese la sedia e si sedette di fronte a lui. Gennaro Piazzi, sei prigioniero di Avanguardia Armata. Ti trovi qui per rispondere dei crimini commessi dal tuo partito e per il ruolo determinante che hai avuto nell'ambito della trattativa tra i sindacati confederali e la Admiral Motors, che ha portato al patto sciagurato del 22 giugno. A parlare era una voce fredda, asettica, quasi metallica. Ci fu qualche secondo di silenzio, poi la voce continuò. Abbiamo rivendicato il tuo sequestro con una lettera recapitata ai maggiori giornali nazionali e abbiamo posto come condizione per il tuo rilascio l'immediato annullamento dell'accordo siglato per i lavoratori degli stabilimenti di Melfi di Admiral Motors e il ripristino del contratto nazionale per gli operai di tutta Italia. Inoltre abbiamo richiesto il ritiro immediato del cosiddetto pacchetto neri contenuto nell'ultima finanziaria, che introduce misure infami di ulteriore precarizzazione e sfruttamento del lavoro dipendente. Al governo sono stati concessi 7 giorni per accogliere le nostre richieste. Nel caso in cui dovessero essere respinte, il prezzo che dovrà pagare sarà la tua condanna a morte. Piazzi abbassò lo sguardo. Aveva capito fin da subito che la situazione era drammatica, che in ballo ci sarebbe stata la sua vita. Ma sentire pronunciare quelle parole gli raggelò il sangue. Il suo volto era livido e respirava con affanno. «Posso avere un po' d'acqua?» chiese con un filo di voce. L'uomo che gli sedeva di fronte prese un bicchiere di plastica, gli versò dell'acqua e glielo porse. Piazzi lo beve con difficoltà, le mani gli tremavano vistosamente. Ci fu di nuovo qualche istante di silenzio. Poi si raschiò la gola e tentò, anche se con enorme fatica, di rispondere a quello che aveva appena ascoltato. Dunque, mi state dicendo che sono qui per l'accordo del 22 giugno. Posso chiedervi cosa vi fa pensare che abbia avuto un ruolo così determinante nello svolgimento di quella trattativa? E soprattutto, cosa vi fa pensare che il governo si mostrerà disponibile a ritirare non solo quell'accordo, ma l'intero pacchetto neri? Per salvare il segretario regionale della Basilicata di uno dei 4 partiti della coalizione, con tutto il rispetto, ma non vi sembra di sopravvalutare la mia posizione? Beh, cominciamo col dire che il tavolo della trattativa è stato convocato da te e dal ministro dell'Industria, che è un tuo compare di partito. Negli stabilimenti di Melfi c'era lo stato di agitazione permanente. E Admiral Motors alla lunga avrebbe anche potuto cedere. Siete stati voi a parlare di trattativa a oltranza, a forzare sull'accordo a tutti i costi. Tu sarei anche solo un segretario regionale. Ma in questa vicenda hai avuto un ruolo di prim'ordine. Tu sei sotto accusa per le tue precise responsabilità politiche. Ma sei qui anche per quello che rappresenti. Negli ultimi 10 anni, la cosiddetta sinistra di governo ha fatto strame dei più elementari diritti dei lavoratori. Avete introdotto la contrattazione aziendale, avete introdotto le gabbie salariali, avete reintrodotto i turni di notte in tutto il settore dell'automobile, avete perfino buttato al macero l'articolo 18, sostituendolo con l'arbitrato. Ci vuole davvero un bel coraggio a definirvi progressisti. E comunque sia, la finalità del sequestro non è quella di interrogarti, né tantomeno di rieducarti. Noi abbiamo posto al governo precise condizioni per il tuo rilascio. Il tuo destino ora è in mano loro. Piazzi rifletté per un attimo su quello che stava per dire. Avrebbe voluto rispondere a tono a quelle accuse, rivendicare con orgoglio le sue posizioni. Ma la soggezione psicologica era assoluta. E anche se il suo interlocutore non era armato, era come discutere con una pistola puntata alla tempia. Soppesò le parole con grande attenzione. Voi mi accusate di aver portato le parti sociali al tavolo della trattativa e di aver favorito il raggiungimento di un accordo, ma guardate che la chiusura degli stabilimenti era un rischio concretissimo. A noi, Admiral Motors, aveva già mandato un piano di ristrutturazione che prevedeva il decentramento dell'intero comparto produttivo in Polonia e in India. Nel giro di un anno ci saremmo ritrovati con 1.700 disoccupati in più, per non parlare dell'indotto. Davvero credete che avremmo difeso meglio gli interessi dei lavoratori se... L'uomo col passamontagna lo interruppe. Questa storia che bisogna ingoiare qualunque tipo di accordo, anche il più indecente e degradante, perché tanto in Polonia e in India e in Cina si lavora 20 ore al giorno per salari da fame e le fabbriche si possono portare lì in qualunque momento, è un ricatto che i lavoratori non sono più disposti ad accettare. Dalla fine degli anni Ottanta in poi la questione della competitività è stata usata come un randello per far passare qualunque tipo di nefandezza. Con il tuo partito asservito agli interessi del capitale globalizzato e i sindacati confederali che nel nome della concertazione hanno sottoscritto qualunque porcheria, la classe operaia è stata privata sia della rappresentanza politica che di quella sindacale. Ora a darle voce ci pensiamo noi. Se il governo continuerà a rifiutarsi di scendere a patti, noi continueremo a colpirlo. Piazzi conosceva quel modo di ragionare. Quando uno scontro nelle fabbriche si era fatto duro, era stato lui a cercare il confronto con l'ala più oltranzista. Lo avevano anche insultato e lui aveva risposto a muso duro. E nonostante si trovasse in prigionia e con il rischio concreto di essere giustiziato, prevalse ancora l'orgoglio. Lei ritiene di rappresentare la classe operaia defraudata dei suoi diritti dai partiti del centro-sinistra e dai sindacati complici dei padroni, giusto? Bene. Mi spiega dove sono le masse di lavoratori che sostengono le vostre opinioni? Le vostre posizioni? Dove sono gli operai che si riconoscono in avanguardia armata, che condividono le vostre azioni, che delegano a voi la rappresentanza dei loro interessi? Quando avete sparato a Rossetti e a De Carlo, non c'è stata una sola manifestazione di sostegno a quelle azioni, neanche una. La condanna è stata unanime anche nelle fabbriche. E alle manifestazioni che ne seguirono c'erano tutte le sigle sindacali, confederali e autonomi. La classe operaia non si fa rappresentare da chiusa le armi. È stato così negli anni 70 ed è così anche oggi. Ma tu credi davvero di poter misurare la nostra azione politica dalla partecipazione alle vostre manifestazioni di regime? La costituzione di un'avanguardia non segue le logiche del consenso immediato, né quelle del marketing politico. Noi siamo la parte più avanzata del movimento operaio di questo paese e la nostra è una strategia di lungo termine. Inoltre, nelle fabbriche siamo molto più forti di quanto non appaia. Che poi i nostri simpatizzanti non vadano in piazza con megafono e striscioni è una cosa che capirebbe anche un bambino. Bene, da questo dialogo emerge tutta la forza, la carica descrittiva e anche così emozionale che Gianluca sa trasferire alle sue pagine, alle descrizioni anche dei personaggi. C'è scontro, c'è rabbia, ma c'è anche dell'odio. Ci vuoi anticipare qualcosa? Sì, tra l'altro va da sé che questo racconto, come anche gli altri, non sono ambientati negli anni 70, sono ambientati oggi, cioè il contesto politico di cui parlano lì è il contesto che mi immagino possa essere più o meno il nostro, quello del 2013 o 2014. Dunque, questo per quanto riguarda i racconti che ho inserito nella prima parte del libro. Nella seconda ci sono dei racconti che effettivamente sono abbastanza diversi l'uno dall'altro, e non pensavo di fare adesso la scansione di ogni singolo racconto, delle singole tematiche che ho affrontato, ma pensavo di limitarmi a due o tre aspetti che pensavo potessero essere più interessanti anche per noi. Nella seconda parte c'è un racconto che si intitola L'odio, ed è un racconto un po' particolare, se non altro per il fatto che in qualche modo parla di una cosa che mi è effettivamente successa. Naturalmente nel racconto non parlo di me in prima persona, ho badato bene a trasfigurare i singoli dettagli in modo da non rendere la vicenda riconoscibile, però effettivamente in qualche modo ha a che fare con me, con un periodo che precedente a quando ho iniziato a lavorare dove sono adesso. Nel racconto io descrivo un caso di mobbing. Parlo di un impiegato che viene sistematicamente offeso, aggredito verbalmente, umiliato di fronte ai colleghi. E quello che mi premeva fare in questo racconto era di parlare del risentimento e poi dell'odio, che è un po' la sua espressione più estrema. E mi è parsa una questione particolarmente interessante, perché mi sembra che quel tipo di sentimento così distruttivo porti quasi una sorta di conflitto, ma quasi una sorta di paradosso, per cui se da una parte permettiamo di tradurre quel tipo di sentimento in azione, questo significa molto concretamente fare del male a qualcuno. Se diciamo, se pensiamo che fare del male a qualcuno sia un fatto inaccettabile sempre, questo significa che quella parte di me, che poi è la parte più autentica in quel momento, la parte più profonda, quella parte lì va soffocata, rimossa, in qualche modo rinnegata. E secondo me tra questi due piani, tra questi due elementi, nel momento in cui si presentano nella stessa persona, non sono conciliabili. Io non riesco ad immaginarmi una autentica mediazione tra questi due lati, non riesco ad immaginarmi una sintesi. Secondo me vince una parte o vince l'altra, e vince una parte a scapito dell'altra. Ho anche provato ad immaginarmi persone che hanno subito forme di violenza infinitamente più gravi che non l'essere semplicemente immobilizzati in ufficio. Tu ne hai conosciute, poi mi avevi detto, no? Sì. E io ho provato a immaginarmi che per queste persone, o quantomeno per alcune di queste persone, quel tipo di sentimento non è più qualcosa di semplicemente contingente, di legato a quella situazione specifica, ma ho immaginato che possa diventare anche in qualche modo una parte costitutiva dell'identità di una persona. E nel momento in cui questo accade, secondo me ha luogo un vero e proprio paradosso, per cui da una parte penso siamo più o meno tutti d'accordo se dico che costringere una persona a rinunciare alla propria identità sia un fatto inaccettabile. È inaccettabile costringere qualcuno a rinunciare alle proprie convinzioni politiche, al proprio credo religioso, alle convinzioni filosofiche, eccetera. E però dall'altro parliamo di un sentimento totalmente, puramente distruttivo, che quindi non può essere legittimato, non può essere accolto. E che però non accoglierlo significa appunto respingerlo, in qualche modo rifiutarlo, rinnegarlo. E secondo me tra questi due piani, nel momento in cui si instaurano all'interno della stessa persona, non c'è una mediazione. Non riesco ad immaginarmi una vera soluzione. Infatti nell'appunto non ne offro, ho lasciato la questione completamente aperta. Quando abbiamo parlato la settimana scorsa mi avevi detto che ti era capitato di di conoscere persone che... Ma ci sono, sì, la vita è fatta piena di casi. Io penso sempre ai bambini che subiscono violenze, oppure alle donne, ecco, che subiscono delle violenze carnali, sessuali. Tante di loro riescono a vivere lo stesso, ecco, quindi probabilmente c'è una catarsi a un certo punto, l'odio non lo coltivano più, ma vanno avanti. Dall'altra, l'esempio che portavo è anche invece l'esperienza di un ex deportato che ho conosciuto personalmente la scorsa settimana, la bellezza di 94 anni, è ancora vivo, vivace e presente, per cui ha deciso anche di regalarci la sua testimonianza che stiamo documentando. E quello che ci ha raccontato è semplicemente terribile, disumano, bestiale, perché è una persona che ha vissuto per 2 anni in un girando da un lager all'altro in attesa di essere fucilato oppure di morire di stenti, mangiando rane vive, non dire altro. Ecco, bevendo la propria urina durante i viaggi nel carro bestiame. E questa persona mi ha folgorato, perché non odia, non siamo riusciti a percepire la benché minima sensazione. Probabilmente l'odio a volte è una cosa che si alimenta da sé, anzi lo è sicuramente, un sentimento che si alimenta molto facilmente e che è molto potente, imprigiona le persone, ecco, non le lascia libere. Questa è un po' l'idea che mi sono fatta parlando anche con così persone, ex deportati che abbiamo incontrato la settimana scorsa, non solo questo caso ma anche altre persone che ci hanno raccontato di aver perso fratelli di 14 anni, insomma, in questi lager che non sono più tornati a casa, distenti, ecco, erano persone che si spegnevano in maniera inesorabile e molto lentamente, ecco. Però questa è una, chiaramente sono tutte esperienze, opinioni che è importante anche così condividere. Avevo incontrato un testo di Jean Améry durante gli studi filosofici e lui era stato torturato nei campi durante la Seconda Guerra Mondiale, e lui diceva una cosa di questo genere. Lui dice: le ferite del corpo, le ferite fisiche, almeno che non siano irreparabili, almeno che non lasciano danni permanenti, si rimarginano col tempo. Le ferite morali no, quelle diventano parte di noi, quelle ce le portiamo, diventano parte della propria identità. E quindi secondo me mi interessava questa sorta di contraddizione, per cui da una parte l'identità è qualcosa di inviolabile e dall'altra però quell'aspetto di quell'identità, di quella persona, in qualche modo risulta inaccettabile, ingiustificabile. Sì, sì, no, ci credo. Una cosa per i tempi, avevamo in mente ancora un racconto, avevamo in mente di parlare anche di quello che chiudeva la raccolta, però vedo che siamo già alle 7:05, quindi... Ce la facciamo con le finestre? Che dice? No, proviamo. Sì. Vado? Sì. Le finestre. Ah, perché molto bello. Da quanto tempo si trovava in quel labirinto? Non avrebbe saputo dirlo. I suoi ricordi al riguardo erano confusi e l'unica cosa che sapeva per certo era che voleva andarsene. Aveva vagato per quel groviglio inestricabile di corridoi e piccole stanze per anni. E ormai l'unica cosa a cui riusciva a pensare era la fuga. Quel luogo gli era diventato insopportabile, e anche se in alcuni momenti il labirinto gli era parso sconfinato. La sensazione di trovarsi in uno spazio chiuso non lo aveva mai abbandonato. Una volta aveva tentato di raggiungerne il punto più remoto e profondo, aveva trovato un cunicolo buio e un po' sinistro che sembrava scendere in profondità per diversi chilometri, e camminò per giorni interi senza quasi mai fermarsi, ma più scendeva più l'intreccio di corridoi si ingarbugliava. Quando poi si accorse che dopo tutto quel camminare era tornato al punto di partenza, il suo sconcerto fu enorme. Ma com'è possibile? I corridoi scendevano sempre verso il basso, Non posso avere camminato in cerchio. Quel giorno provò un profondo senso di impotenza, un indicibile sconforto e soprattutto una gran rabbia. Da qualche tempo il senso di oppressione e di soffocamento era aumentato. Le pareti attorno a lui sembravano stringersi, in alcuni momenti perfino venirgli addosso. Una volta si era appena svegliato da un brutto sogno. E quando guardò verso l'alto, vide che il soffitto si era abbassato fino a quasi a schiacciarlo. Si coprì gli occhi con le mani, terrorizzato. Ma quando li riaprì, vide che tutto era tornato come prima. Quella fu la prima volta in cui pensò che forse stava impazzendo. Devo andarmene da qui. Deve esserci un modo. Se non riesco a scappare, prima o poi perdo la testa completamente. Ma come fare? Non aveva la più pallida idea di come fosse arrivato lì e quindi non aveva nemmeno idea di come fare per uscire. Aveva cercato di scandagliare il labirinto in tutte le direzioni senza trovare alcunché. Niente porte, niente botole, niente finestre, niente di niente. E tutte le volte che si era inoltrato con l'intenzione di arrivare ai suoi confini, alla fine si era sempre ritrovato al punto di partenza. C'era davvero da impazzire. Un giorno se ne stava sdraiato per terra a riflettere su cos'altro potesse tentare, quando d'un tratto mi sembrò di sentire una voce. Non era la prima volta che sentiva voci o rumori, ma erano sempre voci e rumori che sembravano venire da fuori. Certo, era strano immaginarsi un fuori. Per lui che fuori di lì non era stato mai, o quantomeno non se ne ricordava. Però la sensazione che quello che sentiva provenisse da un mondo esterno era nettissima. Questa volta invece la voce veniva da dentro quelle mura. Avrebbe anche potuto sbagliarsi. Chissà che scherzi poteva fare l'eco in un posto come quello. Eppure era sicuro che quello che stava sentendo ora veniva dall'interno. E anche se non riusciva a distinguere le parole, sembrava proprio che qualcuno stesse parlando. Si spaventò. In tutto quel tempo non aveva mai incontrato nessuno. E aveva ormai dato per scontato di essere completamente solo. Chi è? C'è qualcuno? Nessuna risposta. C'è qualcuno là in fondo? Mi sentite? Era impaurito, certo. Dopo anni di silenzio e solitudine in un luogo così sinistro era più che naturale. Ma accanto alla paura c'era anche la speranza. Forse qualcuno era venuto a liberarlo. Ci fu ancora qualche attimo di silenzio. Poi, da uno dei corridoi apparve un uomo. Era la prima persona che vedeva da quando si trovava lì, o almeno la prima di cui aveva memoria, perché della sua memoria ormai non si fidava più. Gli era già capitato altre volte di aver sognato qualcosa e dopo qualche giorno di non essere più sicuro se era stato un sogno o la realtà. In ogni caso, quell'uomo sembrava davvero reale. Possibile. Dopo tutto questo tempo. Si fissarono senza dire niente per alcuni momenti. Poi l'uomo disse: non ti spaventare. Non sono qui per farti del male. Come stai? Come sto? Come sarebbe a dire come sto? Tanto per cominciare, tu chi sei? Da dove salti fuori? Beh, questa è una storia lunga, non saprei nemmeno da dove iniziare. Avremo modo di parlarne più avanti, non temere. Nel frattempo, dimmi di te. Non hai un bell'aspetto, sai? Ah, non ho un bell'aspetto. Ma tu lo sai da quanto tempo sono rinchiusa in questo posto? Ne hai una vaga idea? Non mi ricordo più nemmeno come e quando ci sono arrivato. E sono secoli che non parlo con qualcuno e tu mi vieni a dire che non ho un bell'aspetto. Beh, grazie, sai com'è, potrei stare meglio. Magari tu sei in grado di spiegarmi dove mi trovo e perché sono qui e soprattutto come faccio ad andarmene. L'uomo lo guardò con uno strano sorriso malinconico. Mi aspettavo queste domande. In un certo senso è il motivo per cui sono qui. Ma temo di non poterti aiutare, purtroppo. Anch'io sono intrappolato qui dentro da tanto tempo. E per quanto ne so, da qui non si esce. Ah sì? E tu come lo sai? Tu come sei entrato? Ci dovrà pure essere un passaggio verso l'esterno, no? Un passaggio verso l'esterno. No, non c'è un vero passaggio, o meglio sì, però da lì non si può uscire. Non so come spiegarlo, è un discorso complicato. Cominciò ad alzare la voce. Un discorso complicato. Beh, spiegamelo. Ho un sacco di tempo, sai? Al momento non ho particolari impegni, quindi fai pure un bel respiro e spiegami tutto. Un discorso complicato. È una vita che sono qui dentro, lo capisci o no? Ho camminato per chilometri in lungo e in largo e alla fine mi sono ritrovato sempre qui. E se non esco da questo posto divento pazzo, capisci? Pazzo! Quindi tu adesso mi spieghi come sei entrato e come si esce da qui, chiaro? Ora l'uomo non sorrideva più. Sul suo volto apparve solo una gran malinconia. Rimase in silenzio per un po', poi disse: io veramente non so come spiegarti questo luogo. Però posso farti vedere una cosa che te la faccia capire meglio. Tu non hai mai preso il corridoio che va verso l'alto, vero? Verso l'alto? Dove? In tutto questo tempo non ho mai trovato un corridoio che portasse verso l'alto. Sei sicuro? Mi sono perso talmente tante volte qui dentro che davvero stento a credere che ci sia un corridoio che ancora non ho visto. Ti assicuro che c'è. E anche se non credo che ti piacerà, forse è davvero il momento che tu lo veda. Vieni con me. Camminarono per diverse ore in silenzio. L'uomo misterioso aveva smesso di rispondere alle sue domande e le poche risposte che aveva ottenuto lo avevano confuso. C'è un'uscita, ma non si può uscire. Ti faccio vedere, ma non ti piacerà. Cosa vuol dire? Allora è proprio così. È una prigione. Sono rinchiuso in una prigione. Ma perché non mi ricordo niente? Perché non mi ricordo né quando mi ci hanno messo, né perché? Non ha proprio alcun senso. Era così assorto nei suoi pensieri che nemmeno si accorse che per la prima volta da quando si trovava lì dentro stava camminando in salita. A un certo punto entrarono in uno stanzone enorme, con grandi pareti bianche e un soffitto altissimo. Non aveva mai visto una stanza così grande e tutto quello spazio gli dava un senso di vertigine. Dal lato opposto all'ingresso da cui erano entrati si ergeva una larga scalinata che culminava in quelle che sembravano due finestre, da cui entrava una luce luminosissima. Inoltre, attraverso le pareti, si sentivano dei rumori simili a quelli che già altre volte aveva sentito, ma decisamente più forti. Venivano dal mondo esterno, questa volta non aveva dubbi. Si potevano distinguere diverse voci, alcune flebili, altre stridenti, urla forse, ma era difficile dirlo. Comunque non erano echi che provenivano dall'interno, di questo era sicuro. Cosa c'è là fuori? Adesso me lo vuoi dire? L'uomo ci pensò un attimo, poi rispose: immagino che avrai notato la scalinata e le due finestre, giusto? Ecco, se vuoi delle risposte, non devi fare altro che salire quei gradini e guardare fuori. Nel pronunciare quelle parole, sul suo viso era apparso nuovamente quello strano sorriso velato di tristezza. E tu non vieni? No, io non vengo. E quando torni probabilmente non sarò più qui. Sai, dicono che due come noi non si incontrino spesso. Due come noi? Che vuoi dire? Anche questo è un discorso complicato, diciamo che quello che non ricordi tu, lo ricordo io. Quello che sogni tu, l'ho pensato prima io. E quando ti viene in mente qualcosa che non c'entra niente, io so che c'entra. Ma vedi, io mi rendo conto che quello che sto dicendo per te non ha alcun senso, almeno finché non darai un'occhiata là fuori. E ora puoi farlo. Devi solo salire. Era vero. Quelle parole non avevano alcun senso. Eppure, ascoltandole, provò un tale turbamento, una tale inquietudine, che avrebbe voluto correre via e tornare nei suoi cunicoli. Ma aveva cercato una risposta per troppo tempo, non poteva rinunciare proprio adesso. La risposta era lì, a portata di mano. E non sapere nulla della propria condizione era la cosa peggiore di tutte. Sapere non poteva essere peggio. Guardò un'ultima volta l'uomo che lo aveva portato fin lì. Poi si voltò, si diresse verso una scalinata e cominciò a salire. Gli scalini non erano particolarmente alti, eppure ogni passo gli costava una fatica enorme. Saliva molto, molto lentamente. Quelle finestre sembravano non avvicinarsi mai. I pensieri si erano fatti confusi. Le immagini di quello che avrebbe potuto trovare incoerenti. ma le parole che l'uomo gli aveva detto appena prima continuavano a riecheggiare. E nonostante continuassero a non avere senso, era come se il loro senso si nascondesse dietro un velo sempre più sottile. Alla fine raggiunse gli ultimi scalini. Le due finestre erano di fronte a lui, a pochi metri. Avevano una forma rotondeggiante e la luce sembrava filtrata da cristalli di tonalità turchese e verde smeraldo. I colori scintillavano in mille sfumature, ma erano sfumature sinistre, minacciose. Per alcuni minuti non osò guardare fuori, era come paralizzato. Tra un attimo soprattutto, pensò, tra un attimo saprò tutto. Ma non provava alcuna esaltazione, alcuna euforia, tutt'altro. Era terrorizzato, atterrito, pentito di essere venuto fin lassù, a un passo dalla verità. Ne ebbe di colpo orrore. Esitò ancora per qualche istante e infine guardò. Non erano finestre, erano occhi, erano i suoi occhi. Erano gli occhi di un uomo che nulla sapeva di sé e di ciò che portava dentro e da cui non sarebbe fuggito mai. Beh, diciamo che il fatto che tu abbia scritto poesie prima di rapportarti alla narrativa lo si percepisce, lo si sente, ecco. C'è un linguaggio anche metaforico molto forte, molto presente, ma nello stesso tempo c'è anche un po' di suspense, perché i finali sono sempre imprevedibili, gli epiloghi sono sempre, vero, qualcosa di inaspettato, di inatteso. Questo era uno degli ultimi racconti che volevamo leggere e ci avviamo alla conclusione di questo incontro con un ultimo intervento da parte di Gianluca, che ci voleva dare alcune indicazioni, sull'ultimo, alcuni indizi. No. Qualcosa su questo. Ah, ok. Se no facciamo notte. Sì, allora concludiamo appunto con te. Se parliamo anche dell'ultimo racconto, mezzanotte siamo ancora. No, va bene. E lei alle 11 deve chiudere. Sì, appunto, ne facciamo sempre l'happy hour, vero? No, solo due parole su questo. In realtà l'idea dell'io imprigionato nel corpo non è un'idea originale, assolutamente, cioè da Platone in giù la troviamo in una miriade di autori, filosofi, scrittori. Quello che volevo fare io era appunto creare una storia in cui la situazione si comprende soltanto alla fine. Volevo creare questo racconto, questa trama che alla fine prende una svolta completamente inaspettata e che dà un senso totalmente diverso a quello che si è letto dall'inizio del racconto fino a quel punto. Ed è questa una delle cose che mi piace di più fare, in assoluto. Quando riesco ad avere un'idea di questo tipo, riesco a tradurla in racconto, è una delle cose che mi dà più soddisfazione in assoluto. C'è poi anche, ho un po' giocato con la figura, con alcuni concetti del pensiero di Freud. C'è questo personaggio un po' misterioso a cui faccio dire quello che non ricordi tu lo ricordo io, quello che sogni tu l'ho pensato prima io, e quando ti viene in mente qualcosa che non c'entra niente io so che c'entra. Io ho un po' giocato con alcuni concetti di inconscio, di lavoro onirico, però non è l'aspetto predominante. Ci sono, diciamo, alcuni elementi filosofici che però rimangono in qualche modo sullo sfondo. E direi che l'ultimo racconto la prossima volta. Lo dovete leggere. Ci prendiamo un'ora solo per questo. Va bene. Allora, giusto per chiudere, io ringrazio ancora Gianluca Battistel che ha scelto la Biblioteca Claudio Augusta per presentare il suo ultimo libro, Maria Pia Zanetti che si presta sempre, ecco, per darci una mano nelle letture. Ringrazio tutti voi che siete venuti, è una sede piccola come potete vedere, è una biblioteca che si trova provvisoriamente in questa situazione in attesa della realizzazione del polo bibliotecario. Siamo sempre contenti comunque quando ci viene a trovare qualcuno, soprattutto qualcuno di nuovo o chi ritorna, ecco perché raccogliamo parecchi libri, abbiamo un quinto del nostro materiale esposto su questi scaffali, mentre il resto è in un magazzino che è facilmente accessibile per noi e quindi procuriamo velocemente tutto quello che serve. Siamo rintracciabili su internet, quindi avete a disposizione il nostro catalogo anche da casa. E se avete piacere di tornare qui con le nostre iniziative che hanno cadenza settimanale o bisettimanale, perché giovedì per esempio, questo giovedì qui alle ore 18 faremo una presentazione di un libro sui rischi di Facebook e quindi di internet anche in generale, sì. E potete iscrivervi, è gratis, però almeno vi mandiamo via mail o con una cartolina gli avvisi di quello che facciamo settimanalmente. Vi ringrazio e ringrazio. Sì, prego. Vista l'accoglienza, io adesso vediamo come vanno i prossimi concorsi, tutto da vedere, però a occhio mi sento di dire che non sarà l'ultimo libro. Se sei d'accordo, ripeto, vista l'accoglienza, sì. Quando esce il prossimo, la prima presentazione che facciamo a Bolzano, la rifacciamo qui? Ma molto volentieri, onorati. Grazie.